Allo. El. Allo. Didimus. E. Marianni. In residenza. Alla Vezzola. Villa Verlicchi. A cura di. Crack. Puntata numero 12. 31 luglio 2021. Gli artisti presentano la performance Allo in Allo al termine della residenza Monos Monos, a cura di Crack. È stato un periodo di un mese, la residenza, e ha dato esito a questa mostra, che si conclude domani. E questo è uno degli ultimi incontri, un po' di finissaggio, come si suol dire, delle mostre, dove c'è anche un accompagnamento diretto degli artisti a tutto il percorso. Lascio dire a loro, vi ringrazio che siete qua. Buona serata. Grazie. Allora, il lavoro diciamo inizia da un'idea di base che è quella di trasformare un solido in un suono. Questo è il concetto iniziale da cui è partito tutto, quello che vedrete dentro. E per fare questo ho utilizzato delle materie che sono tipo la cera, il rame e il legno. Quindi ho costruito una struttura che permettesse di diffondere un solido fatto in cera, farlo diventare liquido e divenire impulso per un suono, per far partire dei suoni, quindi ho usato l'elettronica. Questo è un lavoro che già ho da anni, che avevo in testa, e era inizialmente partito dal ghiaccio che diventava liquido, poi di nuovo solido, e invece poi è diventato cera conoscendo queste due ragazze qua, che utilizzavano già la cera all'interno dei loro lavori. E lì ho mutato questa idea iniziale del ghiaccio in cera. E il lavoro qua si è sviluppato, che partendo da questa idea su cui ho già sperimentato il funzionamento, all'interno di questa villa abbiamo catturato gli elementi che ci servivano. La materia prima, che sono i suoni, che abbiamo registrato tutti intorno dentro alla villa e anche in parte a Marina Romea nella Piallassa, in Baione, non so se è questo. E tutti questi suoni poi catturati sono stati inseriti all'interno di un computer che, con questo impulso che dicevo prima della cera, parte in modo casuale creando un tappeto sonoro. Questa diciamo è l'idea iniziale, dopo si è sviluppato il lavoro comunque come dicevo all'interno e si è dedicato lavorando con l'acqua, il vetro, abbiamo costruito un'altra struttura, poi c'è tutto il lavoro legato ai calchi per poi costruire queste strutture, questi elementi di cera, e anche i calchi sono stati fatti all'interno, all'esterno della casa, partendo dalla natura o dalle strutture, dei piccoli dettagli che magari passerebbero inosservati. Li abbiamo prelevati e portati in primo piano opera, diciamo, integrante. E niente, poi il lavoro si è sviluppato passando appunto all'elemento dell'acqua e il vetro, in cui magari hanno maneggiato più loro, adattandosi un po' a questa idea iniziale, a un altro tipo di strumento, chiamiamolo strumento sonoro. Anche perché abbiamo detto, cioè, è scritto che è un concerto, ma in realtà noi mettiamo in atto dei suoni organizzati e più casuali, diciamo, una roba. Sì, sono suoni anarmonici, non melodici, ma in alcuni casi ci sono state prelevate anche delle note dal pianoforte qua dentro che danno, che spezzano. Per lo più sì, sono stati prelevati da materiali, però ci sono anche suoni che non sono proprio anarmonici, come le note che dicevo del pianoforte. A tratti si sente qualcosa, però non è neanche voluto in realtà. È data al caso, è aleatorio, cioè quello che succederà. Ed è sempre in cambiamento. Poi diciamo che da questo incontro che c'è stato tra noi nel 2018 abbiamo appunto rimaneggiato, no, il materiale che Massimiliano aveva già iniziato in precedenza e si è creato un processo collettivo. Come ho detto anche prima, quando abbiamo incontrato altre persone, Massimiliano ci ha insegnato la concretezza e la questione del concreto, perché noi lavoriamo molto con la filosofia e il titolo di questo lavoro, di questa ricerca, unisce questi due poli, quello della concretezza e quindi della ricerca sonora con il ragionamento filosofico pratico. Quindi il lavoro si chiama Allo in Allo ed è una citazione dal libro 4 della fisica di Aristotele, e il ragionamento, appunto, come appunto parlava Max, di questa raccolta di materiale, di dati. Di dati che sono dati fenomenologici, quindi sono dati del concreto. Perché? Perché allenarlo è anche un lavoro di fiducia nei sensi, quindi riconquistare fiducia nei sensi. E un ragionamento sul luogo. Che cos'è l'essere se non nel luogo? Questa è una domanda complessa, trascendentale, filosofica, alla quale abbiamo cercato di rispondere con la prassi, con una prassi creativa. E come diceva Massimiliano, ci sono vari momenti, c'è il dispositivo di cui parlava Massimiliano, dove si fonde la cera. Questi oggetti che abbiamo raccolto nello spazio, quindi da quel leone che sta sulla porta, a pezzi di corteccia, nel momento in cui sono diventati cera, hanno perso la loro essenza fenomenica e sono diventati una massa informe da fondere per alimentare della musica casuale, che è musica ambientale, cioè musica raccolta da ciò che avevamo intorno. Quindi una sorta di musica fenomenologica dove l'allo e nallo è un perdersi, c'è qualcosa in perdita in questo sacrificio che viene fatto degli oggetti. Poi si passa in un altro momento, che è un momento che è nato proprio qua dentro, quasi all'inizio, non dico casualmente, però in via estremamente sperimentale. Massimiliano stava sperimentando con un vetro borosilicato, che sono dei vetri molto resistenti, che resistono a un punto di fusione molto alto, ci servivano per fondere la cera all'interno. E lo stava facendo risuonare elettronicamente. Noi abbiamo sentito questo suono e abbiamo pensato che fosse perfetto per lavorare insieme su il concetto di luogo e presenza con la voce. Quindi nel momento in cui viene utilizzato questo suono che fa questo risuonatore, dove lui lavora elettronicamente questo suono, noi andiamo a perderci in esso, lo vedrete dopo. Questa sera però, al contrario della prima serata, non sarà fatto proprio così, ma utilizzeremo un campionamento di questo suono come base. Sembra una roba che si lavorerà sul lavoro già stato fatto, una base sonora, diciamo, che è stato campionato. Invece la prima volta l'abbiamo fatto in diretta, è stato forse più improvvisato, ma non è vero, perché per realtà riutilizzandolo non sai come la cosa. Però solo volevo mettere in diretta. Quindi praticamente la voce va a perdersi in questo suono attraverso un'azione di mimesi e poi va a in qualche modo a riconquistarsi, a riconquistare presenza. Questo risuonatore, noi lo chiamiamo risuonatore perché nel momento in cui noi andiamo a calcare il suono, c'è un lavoro tra la vocalità e le vibrazioni ossee, quindi i suoni che andiamo a calcare creano un'onda all'interno del corpo specifica, quindi è un vero e proprio risuonatore nel quale perdersi e riconquistare presenza e quindi riconquistare l'allo e nallo, quindi il luogo aristotelico. La terza sala invece è una sala con degli sgocciolatoi di acqua dove ci sono tre tubi borosilicati con un tappo di cera, scende una goccia e fa tre ritmi differenti. In quel momento noi andremo ad ascoltare l'altro da noi, ciò che noi non siamo, quindi in quel caso l'acqua. Quindi c'è un continuo conquistare e perdere presenza. Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Vi dico due cose per questa serata, che appunto noi vorremmo che fosse una fruizione, vogliamo proporvi una fruizione guidata, che non è una visita guidata come siamo abituati a fare, ma semplicemente vi chiediamo di mettervi in gioco e affidarvi a delle semplicissime indicazioni che ci prendiamo la libertà di darvi per poter entrare al meglio dentro al lavoro. Vi dico solo una cosa così logistica per capire, così poi sappiamo come spostarci insieme nello spazio. A piano terra sulla sinistra c'è una sala che è diciamo una sala introduttiva in cui potete vedere proprio le materie prime, i materiali grezzi da cui siamo partiti per fare questi dispositivi sonori. Poi c'è un video con le voci delle persone del posto che hanno collaborato al progetto, si sono messe in gioco anche loro e hanno letto, quindi hanno dato voce ad Aristotele, quindi noi ad Aristotele abbiamo posto alcune domande e i lavezzolesi ci hanno risposto con le sue parole. E in questo video potete vedere sia i momenti in cui appunto abbiamo campionato i suoni in giro per il territorio e per la villa, sia alcuni momenti del lavoro proprio pratico e dei workshop. E poi trovate alcuni disegni che sono i disegni progettuali per la realizzazione dei dispositivi. Al piano di sopra invece ci sono tre sale. Partiremo diciamo dalla sala dove si entra subito, quella più grande, l'atrio, e poi passeremo alla sala di sinistra e infine alla sala di destra, tanto per capire come si svolgerà la serata. Adesso la prima cosa che vi proponiamo è di concedervi di spegnere il vostro cellulare. Consigliamo durante questo tempo che passeremo insieme, questo tempo di fruizione che avrete del nostro lavoro, di non starvi a fare troppe domande, ma di vedere con gli occhi, ascoltare con le orecchie e percepire con tutto il corpo quello che state vivendo, semplicemente ponendo attenzione a dove siete, dove sono gli altri, cosa stiamo facendo noi tre, cosa stanno facendo gli altri spettatori, e quindi anche avendo la consapevolezza di essere in un certo punto dello spazio o di decidere di muovermi, di avvicinarmi, di allontanarmi dalle altre persone, ogni tanto poter chiudere gli occhi e ascoltare solamente, ogni tanto invece ascoltare e osservare. Alla fine di tutto avremo il tempo poi di parlare e fare domande e esprimere opinioni e dire tutto quello che vogliamo, però durante il lavoro vi chiediamo di non parlare fra di voi e di non farvi neanche tante domande nella testa, ecco, semmai verranno dopo. Allora, adesso passiamo a un piccolo esercizio pratico di 2 minuti, però fondamentale per poter accedere in modo consapevole e sereno. Allora, proviamo a fare un esercizio sull'ascolto della respirazione, dimenticandoci tutto ciò che non riguarda quello che vedremo qui. Quindi quello che non riguarda il lavoro lo dimentichiamo, lo lasciamo fuori. Quindi proviamo a chiudere gli occhi e a respirare e ad ascoltare il respiro. Quindi ascoltate l'aria che entra dal naso e dalla bocca e che percorso fa nel vostro corpo, quindi l'inspirazione e poi l'espirazione. Quindi prendetevi il tempo per ascoltare solo questo e iniziare piano piano a eliminare con la testa i rumori delle macchine, pensieri che non riguardano, ripeto, la ricerca che vedrete e tutte le esperienze pregresse. Fate una sorta di sospensione di tutto ciò che non riguarda questa sera e questo momento. E rallentando la respirazione, le spalle scendono, la colonna è eretta e il corpo è rilassato. Non ci sono tensioni se non impulsi vivi che passano nel corpo, ma il corpo è rilassato. Ad ogni respiro le spalle scendono, quindi ogni espirazione le fa scendere un po', soprattutto lo sternocleidomastoideo si ammorbidisce, tutta la muscolatura del collo e delle spalle. e provo a puntare lo sguardo internamente, due dita sotto l'ombelico, dove finisce il mio respiro, finisce proprio lì. Non vedo altro, solo quel punto. E adesso inizio a attivare consapevolmente le mie orecchie e ad ascoltare lo spazio intorno, quindi a dar fiducia ai miei sensi, quindi ascolto i suoni qui intorno, poi piano piano apro gli occhi e guardo chi ho intorno e lo spazio. Nient'altro al di fuori di questo mi interessa ora. Proviamo anche a puntare lo sguardo in un punto preciso. A questo punto possiamo entrare. Didimus e Marianni in residenza a La Vezzola, Villa Verlicchi, a cura di Crack.